io chiamerei Claudio Malfitano, che è il presidente dell'Arcidie di Padova, chiamerei Paolo Coin, che è l'amministratore della Fiera di Padova, che ha organizzato con noi questa manifestazione. Intanto che Paolo arriva, perché abbiamo anche Alessandra Agostini. Il pesce rosso. Palco, poi c'è Etta Andrella, che è del consorzio promozione turismo di Padova, che ha lanciato la campagna Padova Friendly. Dunque Padova diventa una città friendly anche sotto il profilo del turismo. Il pesce rosso.